Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Negli ultimi anni è esplosa in Italia, ma anche in altri paesi europei, la moda dei gialli scandinavi, ad iniziare dalla trilogia Millennium dello svedese Stieg Larsson. Ma la tradizione del poliziesco nordico ha radici lontane, risale agli anni 70, con i gialli della coppia svedese May Schuval e Per Valu, che solo da pochi anni vengono tradotti in Italia da Sellerio. E sbarca da noi, nel nostro paese, solo ora, anche un altro noto giallista scandinavo, Gunnar Stålesen, norvegese. Ha scritto una ventina di romanzi e il primo ad essere tradotto in italiano è Satelliti della morte, pubblicato da Iperborea, casa editrice specializzata in scrittori del Nord Europa e che con questo libro ha inaugurato la collana Ombre, dedicata appunto al giallo e al thriller. Protagonista seriale dei gialli di Stålesen è il detective privato Varg Veum, che l'autore descrive così. Varg Veum is an Norwegian version of the typical American private detective. Varg Veum è la versione norvegese del tipico investigatore privato americano. Ha un passato come impiegato dei servizi sociali nel Dipartimento Custodia Minori. Per vari motivi è stato licenziato e ha iniziato la sua attività di detective privato, ma sempre per aiutare bambini o giovani in difficoltà. E sono contento che il primo libro che viene pubblicato in Italia sia questo, perché la storia torna indietro nel passato di Varg Veum come assistente sociale. The story goes back to the background of Varg Veum as a social worker. Il nome Varg Veum ha un significato particolare nella cultura norvegese. Quale? Yes, the name Varg Veum is based on an old Norse expression, and that is Varg I Veum, which means wolf in a holy place. Sì, il nome Varg Veum è basato su un'antica espressione norrena, e cioè Varg I Veum, che vuol dire lupo in un luogo sacro. L'espressione era usata per indicare i fuorilegge nell'epoca vichinga, e questo tipico detective privato è spesso un lupo solitario. E così il concetto del lupo solitario e del fuorilegge mi hanno fatto venire l'idea di chiamarlo Varg Veum. Ma devo anche dire che Veum è un normale cognome norvegese, quindi è possibile essere chiamati Veum in Norvegia. Veum is an ordinary Norwegian family name, so it's quite possible to be named Veum in Norway. A volte il suo personaggio seriale viene paragonato a Philip Marlowe, il detective privato nato dalla penna di Raymond Chandler. Effettivamente ci sono dei punti in comune? Questo paragone le fa piacere o no? Yes, the influence of Raymond Chandler on my writing is very very big. Sì, l'influenza di Raymond Chandler sulla mia scrittura è molto grande. Quando ho iniziato a scrivere gialli, le due influenze più forti arrivavano dalla coppia svedese Schuval e Valu e da Raymond Chandler. Per noi giallisti, Chandler è lo Shakespeare del genere, perché usa un bel linguaggio, molto ricco, ironico, usa metafore interessanti, e quando ho iniziato a scrivere un libro con Varg Veum, ho provato in un certo senso a imitarlo, facendo una mia versione personale di quel tipo di lingua e di storie. In a way, copy him, or at least do my own version of his sort of language and stories. Ma veniamo alla trama dei Satelliti della morte. Come già in parte si accennava prima, in questo romanzo si torna un po' al passato del protagonista. Che cosa gli accade? I wanted to tell a story that was not a very short story. Very often the crime novels takes place in a week. Volevo raccontare una storia che non fosse così breve. Spesso le trame dei gialli sono concentrate in una settimana, in 5-6 giorni o 2 settimane, ma io volevo seguire il destino di un ragazzo preso in carico dal servizio sociale e vedere cosa succede dopo nella sua vita. Va in prigione, viene accusato di un duplice omicidio. Quindi, nella parte seria del romanzo, ho provato a descrivere cosa è andato male con la sua vita. Ma allo stesso tempo è un giallo, con un mistero. E per il lettore, io spero, la fine racconterà una storia diversa da quella che si immagina nel resto del libro. It will not be a big surprise, I hope, for the readers, that the ending will tell quite a different story that seems earlier in the book. In questo giallo emerge anche una situazione molto problematica e difficile che vivono bambini e ragazzi in questa appunto cittadina norvegese. Noi, soprattutto italiani, abbiamo un'immagine della Norvegia come il paese perfetto. Tempo fa ne parlavo proprio con May Schuval, anche dell'idea che abbiamo della Svezia e degli altri paesi scandinavi. E lei mi diceva che abbiamo un'idea falsata, che in realtà anche nei paesi scandinavi c'è molta criminalità, c'è molta violenza. Effettivamente è così? No, I must say that the picture you get in the detective novels from the northern countries are much darker than reality. No, io dico che l'immagine che si ricava dai gialli scandinavi è molto più nera della realtà, perché noi che scriviamo gialli siamo interessati al lato ombroso della società, alla parte più oscura, e descriviamo cosa va male. Ma è importante sottolineare che nessuno dei paesi scandinavi è perfetto. Abbiamo molti problemi, ma speriamo di avere anche le possibilità e i mezzi per correggere alcuni di questi problemi. Negli ultimi anni stiamo assistendo a un vero e proprio boom dei gialli scandinavi. Secondo lei esiste una scuola? Ci sono, cioè, delle linee in comune fra i vari giallisti scandinavi o no? I think the new wave of Scandinavian crime literature starts with Sjöwall and Valö. Credo che la nuova ondata dei gialli scandinavi parta con Sjöwall e Valö, perché fra il 65 e il 75 hanno scritto 10 romanzi con Martin Beck, protagonista, ambientati a Stoccolma. E loro sono un esempio di come anche gli scrittori di sinistra, critici della società, siano entrati nella giungla dei romanzi polizieschi per mostrare le proprie ragioni. A differenza dei gialli tradizionali alla Agatha Christie, che erano puro intrattenimento, questa letteratura ha anche degli scopi seri. E noi abbiamo una lunga tradizione di giallisti in Scandinavia, fin dalla metà del XIX secolo, all'epoca di Edgar Allan Poe. Anche scrittori danesi, norvegesi e svedesi hanno cominciato a scrivere gialli. Credo però che la causa di questa nuova ondata dipenda dal successo di Sjöwall e Valö. Autori come Mankell, Stieg Larsson, me stesso, Nesb, scrivono sulla scia dell'eredità di Sjöwall e Valö. Off the stream or in the inheritance of Sjöwall and Valö. Ma perché proprio ora questa passione per i gialli scandinavi? Appunto, non è una tradizione recentissima, ma Sjöwall e Valö hanno scritto negli anni 70, soprattutto in Svezia. Perché ora questa passione? Well, yes, Sjöwall and Valö started in the 70s. I wrote my first detective story in 1975. Sì, Sjöwall e Valö scrivevano negli anni 70 e io ho scritto il mio primo giallo nel 75, mentre Mankell, che ha la mia età, ha iniziato a scrivere negli anni 90. La cosa interessante è che solo negli ultimi 10-15 anni il resto del mondo si è accorto di quest'onda che per noi è iniziata negli anni 70. Ma noi siamo piccoli paesi con lingue che non molti stranieri comprendono, così per noi ci vuole tempo per comunicare con il resto del mondo. Not many foreigners understand, so it takes time for us to get into the world. E questo era Gunnar Stålesen, autore di Satelliti della morte, pubblicato da Iperborea, con la traduzione dal norvegese di Maria Valeria Davino. Ed è un giallista norvegese ad un poeta inglese, John Keats, uno dei massimi esponenti del romanticismo. A lui è dedicato il libro Bright Star, la vita autentica di John Keats, scritto dall'editore Elido Fazzi, appassionato appunto di Keats. Si ripercorre l'ultimo periodo della vita del poeta, fra difficoltà economiche e problemi familiari. Ma sentiamo Fazzi che ci spiega il perché di un libro su Keats. Perché Keats è al centro di tutte le riflessioni di alcuni teologi, di scrittori in questo momento, no? Keats, come dire, in qualche modo viene scoperto adesso, in Italia non era mai stato scoperto. Quindi io sento che Keats è al centro di tantissime riflessioni, no? Da parte di alcuni filosofi, da parte di teologi, eccetera. E quindi è un poeta di una modernità, come dire, poeta di oggi, no? Oggi c'è un grande bisogno si sente il bisogno di spiritualità, di dare un senso alla vita, di ricostruire anche un senso del sacro che non sia quello delle istituzioni, diciamo, religiose, no? Della Chiesa Cattolica, dove il sacro si è perso, però gli uomini hanno sempre bisogno di quello. Quindi significa che si va in una direzione in cui Keats, come dire, con un grande anticipo, aveva posto alcuni dei problemi fondamentali. Cosa di cui si sono accorti anche i filosofi, sono molti saggi di filosofi, alcuni stanno per uscire a cena su questi temi. E questo era Elido Fazzi, autore di Bright Star, la vita autentica di John Keats. Prima di chiudere vi parlo dell'iniziativa di quest'anno lanciata da Radio 24 e dal Salone del Libro di Torino al Lingotto dal 13 al 17 maggio. Tema di questa edizione, la 23esima, è la memoria. E allora vi chiediamo, qual è il primo libro di cui avete memoria? Qual è, insomma, il primo libro della vostra vita, quello che vi ha emozionato di più, oppure quello che vi è capitato in mano magari anche per caso? Scriveteci una mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana sceglieremo le due mail più belle e chi le ha scritte si aggiudicherà due biglietti per il Salone del Libro di Torino. Anche per oggi è tutto, una buona serata da Alessandra Tedesco. Vi ricordo come sempre queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it in MP3 e in versione podcast.